Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Heavy shelling and gunfire along the Lebanon-Israel border. It was the worst clash since the July 2006 war. But this time, the Lebanese army was involved, not Hezbollah. Casualties fell on both sides, and the Lebanese journalist lost his life, caught in the crossfire. عاد الهدوء الحذر ليخيم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد يوم دام. Riflettori puntati da parte di tutti i media internazionali, anche quelli arabi, sul Libano, sul confine libano-israeliano e sull'incidente appunto fra israeliani e libanesi di ieri che ha fatto 5 vittime. Di questo parliamo innanzitutto oggi. Buongiorno e benvenuti a Nessun Luogo è Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci al microfono, in redazione c'è Valeria Coffaro e in regia c'è Fabio Cantadori. Ieri ve l'avevamo anticipato, vi porteremo sì in Africa a scoprire un continente nero inedito, ma non prima di andare in Libano il giorno dopo questi incidenti che sono costati la vita a 3 soldati, un civile e un giornalista libanesi e un ufficiale israeliano. Cercheremo di capire che cosa realmente è accaduto e quali sono gli scenari per il futuro. Per interagire con noi 349-238-6666, se avete domande a me o ai miei ospiti via SMS, ci trovate su Facebook Nessun Luogo è Lontano, oppure la mail nessunluogo@radio24.it. Ma innanzitutto facciamo il punto sui fatti. I fatti, ore 12.30 di ieri, una pattuglia israeliana si trovava al confine della cosiddetta linea blu, il controverso confine appunto tracciato dall'ONU nel 49. Gli israeliani tagliano un albero che impedisce loro la visuale, pare che vogliano montare una telecamera. I soldati libanesi aprono il fuoco, ne nasce un conflitto con l'intervento poi dell'artiglieria e degli elicotteri Apache israeliani. Andrea Tenenti, vice portavoce della missione UNIFIL in Libano, da noi raggiunto poco fa. Ascoltate. Gli alberi erano, che sono stati tagliati, erano nella sud della Blue Line, quindi nella zona israeliana. In questa zona il governo libanese ha alcune reservations, dei dubbi, ecco, e quindi è lo stesso il governo israeliano su altri punti, quindi sì. Queste sono le cose che devono essere discusse. Quindi alcuni punti della Blue Line sono sono controversi, anche se entrambe le parti hanno deciso di lavorarci sopra, però appunto entrambi le parti hanno appunto dei dubbi su alcuni di questi punti. Un'altra cosa che è certa e che è stata confermata appunto dallo stesso governo libanese è che l'albero appunto si trovava a sud, quindi teoricamente in zona israeliana. Ugo Tramballi, corrispondente del Sole 24 Ore del Medio Oriente, è finita qui o si apre uno scenario che porterà dove? No, non si apre nessuno scenario, lo scenario era già aperto, l'incidente di ieri fa parte all'interno, è un piccolo episodio di uno scenario rimasto aperto dalla guerra tra Israele ed Hezbollah di 4 anni fa, esattamente dell'estate di 4 anni fa, una guerra che nessuno ha vinto e che nessuno ha perso, e per Israele non vincere una guerra nella psiche, nella coscienza nazionale, per motivi di sicurezza nazionale, per Israele non vincere una guerra è come perderla. Quindi i conti restano aperti. All'interno di questa tensione globale, che è una tensione molto più ampia, perché in questo caso riguarda le problematiche fra Israele e Libano, ma in una regione nella quale ci sono altre tensioni fra Israele e la Siria, fra l'Iran e il resto del Medio Oriente, fra Israele e i palestinesi, non sono storie separate ma fanno parte dello stesso scenario. Ecco, all'interno di questo ogni episodio, anche il semplice taglio di un albero, può rivelarsi come l'inizio di un conflitto. Ecco, non credo comunque che questa cosa succederà ora. E il canovaccio, diciamo, questa sceneggiatura infinita di cui parlavi tu prima, continua, perché è un'agenzia battuta da poco. Il governo di Beirut sostiene che siano stati gli israeliani i primi a sparare, quindi non i libanesi. Insomma, io credo che sarà poi realmente difficile stabilire come sono andati i fatti. È al lavoro l'UNIFIL in questo momento, che cercherà di panare questa matassa. Stasera ci sarà un incontro UNIFIL israeliani-libanesi e vedremo un attimo se si riuscirà a fare chiarezza. Però Ugo, una cosa che stupisce molti osservatori ma forse tu potrai fugare lo stupore, è il fatto che Hezbollah, il partito sciita di Dio, appoggiato dal vicino Iran, Hezbollah in questa frazione di questo canovaccio, di questa sceneggiatura, è un po' dietro le quinte. Come mai? No, se io sono un osservatore, posto che lo sia, non sono stupito, nel senso che Hezbollah non è solamente un movimento di terroristi, è anche un'organizzazione terroristica. ma è tante altre cose, è un'organizzazione politica, è un partito sociale che forse è l'unico partito del Libano, gli altri partiti sono sostanzialmente partiti familiari o associazioni al furto dei beni dello Stato. Hezbollah ha una mente politica molto sottile, molto capace, quindi sanno valutare le situazioni. Certamente nell'ombra, all'ombra di questa vicenda c'è probabilmente la questione del Tribunale Internazionale che fa trasparire l'ipotesi di accusare Hezbollah dell'omicidio di Rafik Hariri di 5 anni fa, sì, l'ex primo ministro libanese, e quindi probabilmente Hezbollah vuole alzare la tensione per dimostrare che non sia tanto difficile, se qualcuno tenta di coinvolgere Hezbollah in quell'omicidio e quindi di rovinarne il profilo, loro sanno che cosa fare, che è una specie di minaccia mafiosa. Però il problema appunto è che adesso è l'armée libanese che è intervenuta. Intendiamoci, i soldati specifici dell'armée libanese sono intervenuti, sono di una brigata a maggioranza sciita, sciiti quanto lo sono Hezbollah. In Libano quasi tutti gli sciiti sono, se non sono Hezbollah, sono sostenitori di Hezbollah. Sì. Dal punto di vista strettamente militare, è assolutamente inipotizzabile che, come dire, il Libano accetti uno scontro, non c'è possibilità, no? Il Libano in quanto nazione da solo no, certamente no, però un eventuale conflitto fra Libano e Israele non è un conflitto fra lo Stato di Israele e lo Stato libanese, ma è un conflitto che potrebbe estendersi all'Iraq, potrebbe estendersi alla Siria, potrebbe eventualmente estendersi all'Iran, e comunque c'è Hezbollah da solo che ha un arsenale di missili sufficienti, certamente non potrà mai vincere un conflitto con Israele, ma sono in grado di non far vincere Israele in un conflitto con il Libano, sono in grado di colpire sicuramente città come Haifa, come del resto che già fecero 4 anni fa, sì, e forse di andare ancora più in profondità. Sì. Lo scenario non è quello di un conflitto di nuovo come quello che è successo 4 anni fa, lo scenario di un prossimo conflitto è il quarto conflitto medio orientale, come si usava come l'ultimo risale alla guerra del Kippur del 73, un conflitto fra stati ma anche fra milizie, un conflitto nel quale potrebbe questa volta intervenire anche là, cioè in poche parole una vera guerra mondiale medio orientale. Sì, quindi l'allargamento del conflitto. Allora, hai citato quelli che sono alcuni degli attori regionali che stanno giocando la loro parte, il loro ruolo in questo canovaccio. Ascoltiamo insieme che cosa il ministro degli esteri Franco Frattini ha riferito alla Camera proprio questa mattina. Abbiamo fatto, e lo ripetiamo, un appello non solo alle due parti, quella libanese e quella israeliana, ma agli attori regionali che hanno contribuito e che possono contribuire a mantenere o a migliorare la situazione nell'area. Mi riferisco in particolare al ruolo egiziano, al ruolo saudita, al ruolo della Turchia, che non può essere, non deve essere dimenticato o abbandonato per le tensioni esistenti tra Turchia e Israele, e certamente il ruolo della Siria, con cui l'Italia intrattiene rapporti come con tutti gli altri paesi particolarmente stretti, che ha voluto testimoniare con una visita importante, con un incontro importante del presidente Assad con quello libanese, un impegno, ci auguriamo, positivo per la stabilizzazione. Allora, Ugo, degli attori citati da Frattini, secondo te chi può in qualche modo svolgere il virtuoso ruolo di prima donna e calmare le acque? Beh, togliendo subito l'Egitto, che oramai semplicemente nell'attesa della successione a Hosni Mubarak, che vive in una stagnazione rappresentativa regionale, no, nessuno può fare la prima donna. Solamente credo gli Stati Uniti potrebbero farlo, se non avessero le elezioni di midterm fra poco, e quindi l'amministrazione Obama non ha intenzione di farsi trascinare in un negoziato che sarebbe lungo e penoso e anche pericoloso. Nessun paese è in grado di imporre qualche cosa di positivo. Un concerto di volontà certamente lo farebbe. Il problema è che non c'è un'idea. Su tutti i conflitti che ho citato all'inizio, quelli specifici libanesi e quelli tutto intorno, non c'è nessuno che abbia un'idea per come uscirne, e vorrei aggiungere, non c'è nemmeno un leader. Mi dispiace davvero, ma temo che anche Barack Obama non sia quel leader che ci aspettavamo, almeno per quanto riguarda le complessità del Medio Oriente. E quindi è difficile pensare che qualcuno possa risolvere il problema. Manca una roadmap chiara, manca un... Frattini ha ricordato che siamo alla vigilia della ripresa dei negoziati, ha ricordato che lui a settembre conferma che andrà nella zona, fra l'altro visiterà anche Gaza. Non è sufficiente, bisogna ingranare una quinta marcia che non c'è adesso, Ugo. Beh, con tutta la buona volontà di Frattini, certo non è Frattini, non è l'Italia che può guidare questa cosa. Stupisce poi il fatto che appunto Frattini e gli altri ministri degli esteri vogliono andare a Gaza, dicono senza incontrare Hamas. Ora, poiché Hamas ha vinto le elezioni a Gaza, posto che le elezioni siano ancora valide, ma oramai in Medio Oriente le elezioni, tranne che in Israele, sono difficilmente sono valide, cioè è difficile, non ha senso andare a Gaza se per non incontrare Hamas. Io credo che il senso per esempio della diplomazia europea sarebbe proprio quello di andare da Hamas, come andare a Hezbollah, chiedendo loro di accettare l'aspetto negoziale. Non è possibile pensare a un progetto di pace, di negoziato, ignorando il fatto che nel frattempo, o dando per scontato che nel frattempo Hamas e Hezbollah sono solamente una banda di terroristi, che sono anche quello, ma non sono solo quello. E non è pensabile, visto che l'hanno dimostrato le vicende di questi ultimi 4-5 anni, non è pensabile un assetto regionale di tutte le problematiche fingendo di ignorare che Hezbollah e Hamas non esistono. Il nostro obbligo, credo, anche se non esistessero queste organizzazioni, il mondo e il Medio Oriente sarebbero migliori. Sfortunatamente esistono, e il compito della grande diplomazia internazionale, europea, democratica, è quello di parlare con questi cercando di convincere ad essere diversi, non ignorarli consentendo loro di continuare a fare quello che vogliono. Grazie Ugo Tramballi per il tuo intervento, un buon lavoro. Grazie a voi. A presto. Allora, prima di lasciare l'informazione finanziaria alla borsa, vi faccio sentire ancora una battuta di Andrea Tenenti, il portavoce, vice portavoce Unifil, che ci spiega meglio che cosa cambia al livello del terreno per la missione Unifil e anche per il nostro contingente italiano lì in Libano. Niente cambia nel terreno, il livello d'allerta rimane sempre lo stesso, anche il dispiegamento delle varie unità, dei vari contingenti, dei 32 contingenti che fanno parte della missione ONU qui nel sud del paese, tutto rimane invariato, logicamente ci sarà un'altra attenzione in diverse parti della zona d'operazione della missione. Allora, questo è quello che non cambia, nel senso che il livello d'allerta è massimo. Chiudiamo qui la parentesi libanese, ma continueremo a tenere d'occhio la zona mediorientale e a darvene conto nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. E ancora una buona giornata da Giampaolo Musumeci, da Valeria Coffaro e da Fabio Cantadori, insieme a confezionare questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, che ora volta decisamente pagina dopo essere stato in Medio Oriente. Ma voi lo sapete, siccome Nessun Luogo è Lontano, io amo portarvi nei posti più disparati del mondo, e adesso vi porto in Africa con le parole della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. Vorrei raccontarvi alcune storie personali riguardo quello che io chiamo il pericolo della storia unica. Ho cominciato a leggere molto piccola e ciò che leggevo era letteratura inglese e americana per bambini. Così, quando ho cominciato a scrivere all'età di 7 anni, nelle mie storie c'erano bambini bianchi dagli occhi azzurri che mangiavano mele e giocavano nella neve. E questo nonostante il fatto che fossi nata e cresciuta in Nigeria, dove non c'è la neve e i bambini mangiano mango. Tutto ciò mostra quanto siamo vulnerabili di fronte alle storie, soprattutto da bambini. Le cose sono cambiate quando ho scoperto i libri africani e ho capito che persone come me potevano esistere in letteratura. Ho amato i libri inglesi che ho letto. Hanno smosso la mia immaginazione, ma quello che i libri africani hanno fatto per me è stato salvarmi dall'avere una storia unica di cosa siano i libri. Il pericolo della storia unica di cui parla Chimamanda è un pericolo reale, nel quale, insomma, rispetto al quale i cronisti, mi ci metto in mezzo i reporter, a volte, insomma, con cui dovrebbero fare i conti. Il pericolo della storia unica. Ascoltate ancora questo interessante passaggio di Chimamanda. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university. Diversi anni più tardi, quando ho lasciato la Nigeria per andare a studiare negli Stati Uniti, la mia compagna di stanza americana fu scioccata da me. Sentiva pena per me ancora prima di incontrarmi. aveva una storia unica dell'Africa, una storia di catastrofi in cui non era possibile che gli africani le somigliassero in alcun modo. Ma col tempo ho capito che se non fossi nata in Nigeria e se la mia immagine dell'Africa dipendesse da ciò che trasmettono i media, penserei all'Africa come un luogo di meravigliosi animali e paesaggi, dove si combattono guerre senza senso e le persone muoiono di AIDS e povertà, in attesa di essere salvate da un generoso straniero bianco. E oggi tenteremo di salvarci dal rischio di avere una single story sull'Africa. Cercheremo di fare proprio questo, di demolire quella consolidata e anche un po' patetica iconografia che fa dell'Africa un paese povero, intanto un paese non un continente, e poi un tutt'uno indistinto, polveroso, fatto di povertà, di guerre, di violenza, di AIDS, di bambini morti, di bambini soldato. Sì, l'Africa è anche questo, ma c'è tutto un pezzo da scoprire. L'Africa è un gigantesco continente, è multiforme, è meraviglioso, ha mille sfaccettature, che vive sì tragedie e guerre, ma che vive, respira grandissime gioie, che produce arte, cultura e letteratura, spesso che viene mortificata da racconti appunto che parlano di un solo aspetto. E ripeto, faccio pubblica ammenda, io da reporter che si occupa di Africa e spesso va a raccontare le guerre africane, insomma cado in questo errore. C'è un'Africa insomma che ama raccontare storie, ama narrare storie, e che lo fa a volte utilizzando magicamente anche la videocamera e la cinepresa. Un buongiorno ad Alessandra Speciale. Buongiorno. Buongiorno Alessandra, lei organizza il Festival di Cinema Africano a Milano, che è un po' il punto di riferimento per chi come me è appassionato di Africa e magari vorrebbe un po' scoprire come gli africani si raccontano. Sì, sono ormai 20 anni che abbiamo cominciato nel ormai lontano 1991 con un festival di cinema che aveva proprio questo obiettivo, cioè ossia il portare in Italia quell'Africa in qualche modo come non l'avevamo mai vista, ossia delle immagini dell'Africa che arrivassero attraverso un punto di vista africano. Quanto il gusto africano riesce a entrare nel gusto europeo? Quanto i due palati in qualche modo riescono a comunicare? Ma io faccio sempre un po' fatica a generalizzare, perché come dicevi anche prima, l'Africa è un continente, per cui è un paese molto, molto vasto e ha ovviamente anche tante cinematografie, quindi ad esempio bisognerebbe fare una distinzione un po' tra la cinematografia che viene dal Maghreb, quindi dal Nord Africa, da quella ad esempio che viene dall'Egitto, che ha una storia di cinema molto antica, a quella dell'Africa subsahariana, per poi arrivare ad esempio alla cinematografia sudafricana, quindi questo a larghe linee. E quindi è difficile trovare delle scuole, o è difficile anche trovare dei punti in comune della cinematografia africana. Diciamo che forse l'unica cosa che si può dire è che per la prima volta intorno agli anni 60, perché insieme con la conquista dell'indipendenza è nato anche il cinema, e non è un caso, ecco, per la prima volta quindi intorno agli anni 60 gli africani sono passati dietro la macchina da presa e hanno cominciato a raccontare le loro storie e a mostrare l'Africa che avevano voglia di mostrare, e questo forse è l'unica. Poi ognuno, ovviamente ogni artista si esprime a suo modo, e penso che sia anche sbagliato cercare di trovare una identità africana nel cinema africano, e sarebbe come cercare di trovare un'identità europea, ecco, al cinema europeo. Ovvio che il cinema francese differisce da quello italiano e così via. Mama. Che ascoltate sono le note, la voce di Sonia Aimi, cantante, attrice, coreografa, scrittrice nigeriana di Lagos, che però vive in Italia e che siamo andate a disturbare durante un incontro diplomatico, mi sembra di capire. Sonia, buongiorno. Sì, buondì. Buongiorno Sonia, sei impegnatissima con un ambasciatore e quindi ti rubiamo pochissimo tempo, ma ti chiediamo un contributo. Sì, oltre, okay. Oltre a averci regalato la colonna sonora di questa seconda parte della nostra puntata, Sonia, volevo chiederti, Quanto gli africani amano raccontare storie e quanto amano ascoltare raccontare storie? Sì, gli africani amano tanto raccontare storie perché fa parte della nostra tradizione, soprattutto quello raccontato oralmente, no? Che poi dagli anni 57 viene anche raccontata attraverso le immagini televisiva, cinematografica, anche di ascolto radiofonico, no? Da 1957 ad oggi. Quindi amiamo raccontare storie come amiamo anche ascoltare le storie, storie dei nostri antenati, delle nostre leggende del passato, storie della vita quotidiana, storie di stereotipi, storie di superstizioni e storie di speranze e così via. Insomma, Sonia, con te stiamo demolendo insieme quella single story, no, africana di cui si diceva all'inizio, per cui si racconta l'Africa sempre in un solo modo. Sonia, non ti voglio rubare più tempo perché so che sei impegnatissima. Tu fai mille cose, perché appunto sì, canti, balli, ci hai appunto regalato la colonna sonora per questo film. I tuoi prossimi impegni, dove possiamo ascoltarti o venirti a vedere? Allora, i miei prossimi impegni, per quale sto a Roma adesso, è quello di collaborare con l'ambasciata nigeriana di Roma per organizzare il 50° anniversario dell'indipendenza della Nigeria, che avverrà tra il 28 settembre fino a 1 ottobre. Quindi è un evento veramente bello, ci saranno diversi artisti che partecipano, sia artisti africani che siedono in Italia e anche con alcuni colleghi italiani tipo Eugenio Benatto e altri ancora, e con la partecipazione e collaborazione di tutti gli ambasciatori africani che sono in Italia e con le diverse comunità africane, no? Che vogliono, si troveranno con la comunità nigeriana in Italia per festeggiare questo evento. Sì, che fra l'altro è comune a parecchi paesi africani, perché insomma ricorre il cinquantenario dell'indipendenza appunto di molti paesi dell'Africa nera. Grazie Sonia, ti lasciamo il tuo lavoro, in bocca al lupo e grazie per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. A presto. Ok, grazie, grazie. Ancora una buona giornata da Giampaolo Musumeci in Nessun Luogo è Lontano. Oggi il cinema africano e l'abbattimento della single story africana. Cerchiamo di capire i mille lati dell'Africa grazie alle telecamere, alle cineprese, grazie agli attori, alle superstar del continente nero che spesso da noi sono sconosciute e che invece, grazie al lavoro di persone come appunto Alessandra, riusciamo a conoscere. Alessandra, parliamo di una certa cinematografia, ma prima ascoltiamo insieme un piccolo contributo. E questa era Josephine Baker che cantava la colonna sonora del film Tuki Buki, che è del 1973, dove il protagonista Mori dice a un certo punto, in una scena meravigliosa, è sulla spiaggia di Dakar, e parla con la sua fidanzata, con la sua compagna, e dice: io voglio essere chiamato Monsieur Mori, perché lui vuole andare in Europa. Siamo nel 73, già si iniziava questa diaspora, iniziava questo percorso migratorio degli africani, e il cinema africano di Dribril Diop Mambéty era lì a raccontare. Quindi il cinema africano racconta tutto, ma racconta anche l'Africa che si muove, racconta i temi forti, i temi importanti del continente nero. Alessandra? Sì, sono qua. Eccola, sì, stavo dicendo, il cinema africano che racconta insomma anche i temi importanti della sua realtà, della sua cultura. Citavamo appunto Tuki Buki, di cui abbiamo sentito Kukubuki è sicuramente una delle pietre miliari della cinematografia africana. Mambeti, che è un regista del Senegal che purtroppo ci ha lasciato una decina di anni fa, è stato uno forse degli artisti più visionari del suo paese, perché riusciva ad unire l'esigenza sociale di raccontare, di denunciare anche le problematiche del nuovo Senegal ad una grande creatività e ad un talento innato di cineasta. Dico innato perché non aveva studiato molto cinema, ma si era formato proprio da solo sul campo ed è arrivato a produrre, realizzare dei film meravigliosi che sono anche andati in competizione a Cannes, come questo Tukibuki. Il tema dell'immigrazione è sicuramente molto presente nel cinema africano, perché è presente nella realtà africana. Non è l'unico tema, chiaramente, però è uno dei temi sicuramente più trattati, come ad esempio un altro tema che è un classico della cinematografia africana è proprio il contrasto, ad esempio, tra la tradizione e la modernità. Cioè questi paesi che hanno visto con l'indipendenza, con la fine del colonialismo, cioè piano piano una trasformazione che si è concentrata in pochi anni e che ha cambiato il volto proprio del loro paese, le città che si sono ingrandite a dismisura. E questo arrivo della modernità che ha creato ovviamente un enorme gap tra chi viveva nei villaggi, ad esempio. Questo è un tema molto, certo, molto trattato. Certo. Nessun luogo è lontano. Ganame. Ana sarame. Ya tilai. Kum sa yande. Wa ti lo ya. E adesso invece, cari ascoltatori, vi ho portato in Burkina Faso con Tilai, la legge, un film di Idrissa Ouedraogo, quasi impronunciabile il nome, chiedo venia. Qui la storia è complessa, è complicata, perché è la storia di Saga che torna al suo villaggio dopo 2 anni di assenza e scopre gli ultimi tragici eventi. La sua promessa sposa, la fidanzata che le è stata promessa, ha sposato in realtà il padre. E quindi il dramma d'amore, il dramma sociale, perché ci sono delle leggi che vanno rispettate, che contrastano invece con i sentimenti di Saga. Alessandra, anche questo viene raccontato dal cinema africano. Fra l'altro, questo è un premio speciale della giuria del Festival di Cannes nel 1990. Sì, Tilai, Idrissa Ouedraogo, altro grande regista del Burkina Faso. Burkina Faso, insieme al Senegal, è uno dei paesi che hanno prodotto più cinema nell'Africa, diciamo, subsahariana, l'Africa nera, per intenderci. Ed è Ouedraogo, tra l'altro, ha proprio creato come una scuola. Dopo di lui molti altri si sono dedicati al cinema, proprio grazie al successo che lui aveva avuto, che aveva aperto una speranza, no, ai giovani del Burkina Faso, che il cinema poteva essere un modo anche per uscire dalle loro frontiere, a volte un po' strette. Ricordiamoci che il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo, e quindi l'idea che un regista che viene da un paese possa arrivare a un successo internazionale, ovviamente è stato qualcosa che ha sconvolto questo paese. Certo. Alessandra, ascoltiamo insieme il terzo contributo che abbiamo selezionato di Chimamanda, la scrittrice nigeriana. So that is how to create a single story. Ecco come si crea la storia unica, mostrando un popolo come una sola cosa, più e più volte, e questa è ciò che diventerà. The single story creates stereotypes. La storia unica crea stereotipi, e il problema degli stereotipi non è che non siano veritieri, ma che sono incompleti. Fanno diventare una storia l'unica storia. L'Africa è certamente un continente pieno di catastrofi, ma ci sono altre storie che non riguardano catastrofi, ed è molto altrettanto importante che se ne parli. E se la mia compagna di stanza in America conoscesse la mia amica Fumi Onda, presentatrice di un programma Lagos, in cui racconta tutte le storie che preferiremmo dimenticare? o se sapesse di Nollywood, pieno di persone innovative che fanno film nonostante la mancanza di mezzi, film così popolari che sono veramente il miglior esempio di come i nigeriani consumano ciò che producono. Ma a Nollywood ci arriveremo dopo. Intanto volevo leggere un sms che è arrivato al 349-238-6666. Michele da San Giovanni in M puntato, non ho idea di dove sia. Comunque Giovanni, Michele, chiedo scusa, mi scrive: sapete che cosa mi stupì di più e fece nascere in me una passione per il continente che mi accompagna da tanti anni? La scoperta della sua storia grazie a un professore. Meglio ancora, lo scoprire che l'Africa aveva una storia, fatta di imperi, guerre, commercio, regine, politiche. Politica, dite alla gente che l'Africa ha una storia che non è uguale a se stessa dalla notte dei tempi come si crede. In effetti questo è vero, ho fatto ammenda aprendo questo programma. La colpa a volte è di noi giornalisti, di noi reporter che andiamo a coprire eventi tragici, ci dimentichiamo di tutto un pezzo di Africa che invece, insomma, andrebbe raccontata. E in questo ci aiuta che cosa? Ci aiuta una grandissima industria cinematografica, che è quella nigeriana, che è Nollywood. Alessandra, Nollywood è un altro pezzo dell'Africa e del cinema africano. Sì, Nollywood è la risposta popolare al cinema africano, perché quando si dice che il cinema africano è nato negli anni 60, in realtà bisogna precisare che è nato poi da un gruppo di cineasti che potevano anche essere considerati un po' degli intellettuali, e non è un cinema che ha girato molto in Africa, questo cinema. Magari era più facile che arrivasse a Cannes piuttosto che arrivare nelle sale africane. Mentre a Nollywood, cioè a Lagos, con l'arrivo del video, cioè della videocamera, e quindi la possibilità di girare anche a prezzi minori dei film lungometraggi, e con la consumazione del film in video, quindi ready proprio to print, cioè ready, sì, a essere visto, cambia completamente la faccia del cinema africano, nel senso che diventa un cinema più popolare, un cinema visto dagli africani, e se vogliamo magari un po' meno interessante da un punto di vista artistico, ma sicuramente molto interessante da un punto di vista, ad esempio, sociologico. C'è chi dice in modo un po' provocatorio che con la nascita di questo cinema, quindi con la nascita di Hollywood, sia nato il vero cinema africano, ossia il vero cinema fatto e visto da africani. Ecco, se non altro, come dire, a sostanziare questa tesi c'è un fatturato che è incredibile: 250 milioni di euro l'anno, 20.000 occupati nella sola Nigeria. È la terza industria cinematografica al mondo. Sì, diciamo che io personalmente, che poi sono andata un po' in profondità su questo fenomeno, credo che ci siano delle cifre un po' gonfiate, però sicuramente un fatturato molto alto. Perché dico un po' gonfiate? Perché potrebbero arrivare a quelle cifre. In realtà non ci arrivano per il pirataggio, sì, perché c'è un fenomeno di pirateria molto forte, per cui un film ha una durata sul mercato brevissima, certo, perché viene immediatamente piratato. Però se queste cifre forse sono un po' gonfiate, in ogni modo possiamo veramente parlare di business, questo non c'è dubbio. Tra l'altro, citando la pirateria, in qualche modo noi andiamo a citare quella che è la nascita di Nollywood, perché questa cosa qua la racconta Franco Sacchi, che è questo italo-americano, ma in realtà famiglia che veniva dall'Africa, che è un regista, un documentarista americano che sta a Boston, che ha realizzato un documentario che si intitola This is Nollywood, che va proprio a raccontare il backstage di questa grande industria cinematografica. Ebbene, Franco racconta che Nollywood nasce proprio da due pirati che copiavano le cassette VHS, le copiavano illegalmente, e si trovavano alcuni container di cassette VHS vuote, dovevano riempirle. Beh, che cosa fecero? Comprarono una piccola telecamera, una piccola cinepresa, e fecero loro un film in una settimana appena, e il film diventò una specie di campione di incassi. Insomma, anche questo è Nollywood. Ascoltiamo il trailer insieme. Action! You can finance a movie with just $10,000 in Nigeria here, and you should shoot in 7 days. We're doing films for the masses. We're not doing films for the elite and the people in their glass houses. Oh, they can afford to watch their RoboCop and whatever. The first thing you have to remember about this society is that Africa still has people that live on $1 a day. And these are the people that really watch these films. So now you're about to see how we do our own movies here, with or without any assistance from anybody. E insomma, in qualche modo, no, Hollywood è la celebrazione dell'essere africani. Loro sono geniali, sono talentuosi nel fai da te, riescono a inventarsi di tutto. E beh, si sono inventati un'industria quasi dal niente. Come dicevi giustamente tu, Alessandra, è cinema fatto dagli africani per gli africani. Vogliamo ricordare un piccolo particolare, che poi particolare non è. In realtà, nel continente nero, l'accesso alle sale cinematografiche non dobbiamo immaginarlo come lo viviamo noi. Io sono andato in cinema, che erano praticamente delle capanne, con un televisore, non di quelli con lo schermo ultrapiatto, erano dei televisori bombati degli anni 80, con un videoregistratore se andava bene, oppure se andava di lusso con il lettore DVD. Perché poi, citavi appunto tu la pirateria, funziona così, sono dei televisori, sono dei piccoli ambienti che diventano sale cinematografiche. Sì, in realtà c'erano anche molte sale cinematografiche, nel senso che quando, ai tempi delle colonie, sia i francesi che gli inglesi hanno lasciato molte sale, e il primo cinema africano era un cinema che si consumava in pellicola, sì, come da noi. È da una decina d'anni, col boom del video, che le sale cinematografiche vere e proprie stanno scomparendo, e in pratica sono diventate dei magazzini, sono diventate delle chiese, cosa divertente. Che molti cinema ora sono diventati chiese per le nuove sette pseudo-cristiane che stanno invadendo in pratica l'Africa. E questo fa parte della magica arte del riciclo degli africani, insomma, in cui non si butta veramente mai niente, nulla si distrugge, ma tutto viene cambiato, modificato e riusato. E invece sono proliferate queste piccole sale, come dicevi tu, che non sono neanche sale, sono come delle capanne, due, sì, teli, una tettoia con uno schermo ed un videoregistratore attaccato che proietta, anzi che mostra, sì, DVD, prima cassette VHS e adesso, da quando c'è il DVD. E questa è la fruizione, se non per coloro che non ce l'hanno a casa, certo, perché appena si può permettere, ovviamente, il televisore videoregistratore immediatamente si consuma a casa. E fra l'altro si diventa in qualche modo l'attrazione del quartiere, insomma, per quella zona. Grazie Alessandra, ricordiamo le date del festival e c'è un sito su cui, da cui si possono attingere informazioni. Sì, le date del festival sono dal 21 al 27 marzo del 2011, il nostro festival è sempre a fine marzo, e il sito è www.festivalcinemaafricano.org. Allora, grazie Alessandra Speciale, un buon lavoro e buone ferie, perché so che ti abbiamo disturbato in ferie. No, figurati, andrò a farmi un bagno adesso. A presto, grazie Alessandra. Ciao. Ancora le note di Sonia Imi a siglare in qualche modo questa puntata, in cui abbiamo cercato di trasmettervi la sensibilità rispetto a un'Africa diversa, un'Africa dalle tante sfaccettature che appunto spesso viene mortificata dai reportage o dalle single story appunto sul continente africano. Nessun luogo è lontano, è quasi giunto al termine, ma c'è il tempo per dare un'occhiata alle notizie dal mondo. What's up? What's up? Notizie dall'altro lato del mondo. E allora vi porto in Pakistan, dove rimane altissima la tensione, 60 morti e 95 feriti per le violenze etniche a Karachi. A riferirlo è la polizia, secondo cui gran parte delle vittime sono civili, commercianti o conducenti di mezzi pubblici. Gli scontri sono stati innescati, lo ricorderete, dall'assassinio di un deputato della maggioranza locale. Ma l'omicidio di Haider Razza ha scatenato un'ondata di panico nella città, che conta oltre 16 milioni di abitanti. I negozi hanno immediatamente abbassato le saracinesche, le strade si sono svuotate mentre si iniziavano a udire colpi di pistola e di arma da fuoco in diversi quartieri. E torniamo in Medio Oriente, perché un'agenzia ritorna sulla questione dei razzi su Aqaba per l'Egitto, e anche quella adiacina israeliana di Eilat. Lo ha indicato una fonte della sicurezza egiziana, facendo capire per la prima volta che i razzi sarebbero partiti dal Sinai. All'inizio il governo egiziano aveva escluso questa possibilità. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto. Un grazie anche a Valeria Coffaro e a Fabio Cantadori. Un saluto, una buona giornata a Giampaolo Musumeci. Noi ci sentiamo domani alle 13:15, ricordando che nessun luogo è lontano.